Spedita nello spazio per cercare un indizio. Sola sulla navicella, lontana come una stella. Una scimmia nello spazio, una scimmia nello spazio, una scimmia nello spazio, una scimmia nello spazio. Quando hai visto il mondo da lassù, hai tentato di non tornare più. Poi è iniziata la discesa e ogni cosa si è accesa. Una scimmia nello spazio, una scimmia nello spazio, una scimmia nello spazio, una scimmia nello spazio. E tu rientro in atmosfera, una devastante paura, sognerai di tornare là, dove c'era solo oscurità. Al tuo rientro in atmosfera, brucerai con una candela.